Buon pomeriggio a Luca degli Assalti Frontali, che è in collegamento qua con me sui 103.1 e a cui do il benvenuto su Radio Città Fucico. Ciao Luca. Ciao Adele, ciao a tutti di Radio Città Fucico. Domani all'ex centrale, all'interno della rassegna Periferic, presenterai il tuo libro Storie di Assalti Frontali, conflitti che producono banditi. E vorrei iniziare questa intervista proprio dal titolo. Ti chiedo quali sono le storie che vengono raccontate in questo libro e qual è la storia degli assalti frontali. Sì, allora il libro intanto è uscito circa 25 anni fa, poi piano piano nel corso degli anni ci sono state tante edizioni e qui è appena uscita, diciamo, la quinta edizione, quindi lo spunto lo prendiamo dal libro, ma poi raccontiamo appunto le storie di assalti frontali nel corso di tutti questi anni, che sono le storie di alla fine di ragazzi che hanno cercato attraverso l'arte di cambiare il mondo, di fare pure una rivoluzione, e ragazzi che poi si sono identificati anche con delle generazioni, cioè ci sono state appunto la generazione degli anni 80, degli anni 90, dei 2000, 2010, poi siamo arrivati agli anni 2020 e ogni generazione ha avuto le sue caratteristiche, insomma negli anni 80 in cui facevamo una degli assalti frontali di resistenza, la resistenza era pure stare completamente fuori dalle istituzioni, ai margini, costretti ai margini, quindi cercando di ritrovare degli spazi, una comunità pure, perché dopo appunto dopo tutta la sconfitta del ciclo degli anni 70, quindi trovare anche dei nuovi linguaggi, come è stato appunto l'inizio del rap, e poi dopo negli anni 90 attraverso i movimenti che sono stati quelli dell'occupazione dell'università, quindi della resistenza anche del sapere pubblico all'aggressione di quelli che erano appunto i capitali privati che volevano privatizzare l'unità scuola, l'università, dopo tutto quello che poi è successo dopo, che è arrivata la precarizzazione, eccetera, eccetera. Insomma, comunque è una storia, anche è un po' una storia dell'Italia, storia di queste generazioni che hanno cercato di fare la resistenza, di portare i loro sogni, lottare fino a oggi, dove appunto le lotte ambientali, il lago che combatte, poi le lotte dentro le scuole, eccetera. Quindi è una generazione che ha cercato di trovare il proprio posto nella società, in una società che magari cercava invece di tagliare fuori tutto ciò che non era, che non è merce, che non è poi riconducibile dentro con una compravendita. Quindi cercare di trovare una comunità, ecco, una comunità che si prende cura dei propri componenti, delle proprie persone, dei quartieri, una comunità che si prende cura dell'ambiente, insomma, e che è fiera. Poi noi abbiamo lavorato tanto appunto sul fatto di essere fieri di quello che siamo, di non abbatterci, nel senso di uscire fuori dal senso della sconfitta magari che ci portiamo, di questa depressione che aleggia, questa solitudine che aleggia, insomma, nel nostro mondo. Rimanendo sulla tematica spazi e questa comunità, anche la ricerca di voglia di lottare per una rivoluzione, e ti chiedo quanto è difficile o se ci sono delle difficoltà a portare avanti un discorso politico in questo senso in un momento in cui la risposta istituzionale è sempre più repressiva, diciamo. Vediamo ad esempio gli sgomberi in tutte le città, ad esempio qua a Bologna siamo privi di spazi praticamente, ma non solo, a Roma è stato appena sgomberato l'anno scorso il nuovo Cinema Palazzo. Quindi ti chiedo, da musicista ma anche musicista che porta avanti un discorso politico molto preciso, quanto è difficile portarlo avanti in questo momento? È difficile perché bisogna trovare le parole buone, bisogna trovare le parole giuste, bisogna entrare in sintonia con un'atmosfera che pure al di là della repressione è proprio di un disincanto generale, perché porta l'idea che alla fine non si può fare quasi niente, ecco, per cambiare le cose, anzi poi figura di questa pandemia ha creato una solitudine ancora più grande, quindi è difficile perché insomma devi combattere con la repressione, ma soprattutto bisogna ricreare, cioè cercare di lavorare su quest'idea che ci può essere la comunità, che magari la comunità che non è che sono pensare che sono i governanti che vogliono il nostro bene, perché loro anzi ci odiano pure, capito, come popolo, come persone, non è che gli interessa più di tanto, siamo noi che dobbiamo prenderci cura di noi stessi e quindi dei nostri diritti, degli spazi che abbiamo, ed è difficile appunto, è un lavoro che stiamo cercando di fare, penso che stanno cercando di fare tutti quanti, noi con la musica certo sono tanti anni, cercando di fare tante cose nuove, cercando noi ultimamente, io almeno quello che sto facendo io personalmente è pure cercare di lavorare tanto nelle nelle scuole, soprattutto scuole elementari, nelle scuole medie, portare il rap dove tanti ragazzi ora come ora lo amano, e quindi insomma cerco di trovare magari di lavorare su concetti di diritti che magari noi ormai abbiamo dato per scontato che sono finiti, insomma. Passando al sottotitolo invece del tuo libro, Conflitti che producono banditi, ti chiedo cosa significa adesso questo conflitto e quali sono i banditi a cui fai riferimento. I conflitti che producono banditi è il fatto che i conflitti sono ovunque, e i banditi sono tutti quelli che vengono messi ai margini della società, messi al bando, appunto, poi fondamentalmente. È un gioco di parole sul fatto che sia oggi come oggi ci sono delle leggi che sono ingiuste, e quindi si cammina sempre un po' su quel filo che è tra il legale e l'illegale, che in un momento appunto sei legale, nel momento in cui sei un altro momento sei illegale e diventi un bandito, oppure diventi appunto uno messo ai margini, e quindi cercando di lavorare sull'inclusione, sul fatto di appunto di non escludere nessuno, di non lasciare nessuno da solo. E questo noi, per dire, io ho avuto anche la grande fortuna di trovare il rap, trovare l'arte, trovare la possibilità attraverso l'arte di esprimermi, però appunto io cerco pure sempre attraverso l'arte di comunicare agli altri, di comunicare a tutti quelli che posso, che l'arte è una grandissima porta, appunto. C'è una canzone nostra che dice la porta per volare, grandissima porta per volare, appunto, per non restare banditi, per non restare esclusi, per non restare fuori. Luca, io ti ringrazio e invito tutte e tutti a partecipare domani a questo incontro all'ex centrale dalle ore 19, e grazie per questa chiacchierata. Beh, allora ci vediamo domani all'ex centrale, alle 19 c'è questa presentazione, questo talk poi che faccio con altro, con Pinuccio Di Biasi, che sarà con me a parlare, e poi alle 21 facciamo il concerto, quindi ci vediamo tutti lì.